Vendo tutto di Matteo Caccia. Vendere le cose non è solo un modo per liberarmi di tutto. È un po' la maniera per ricordarmi che quello che non si vede, che non si tocca e che non si dice è più forte di quello che ho accumulato nella mia vita. Quindi non mi fermo e vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un impianto home theater. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08, sono arrivati dei messaggi prima ancora che andassi in onda e quindi rispondo al volo. Prima a Luigi, che dice che vorrebbe fare una offerta per la scatola di caramelle delle liquirizie che ho venduto ieri e che però non usa internet, si può trovare un altro modo. Luigi, no, purtroppo no, perché il metodo è eBay e quindi rimane eBay. E poi anche Martina da Biella, che evidentemente non riesce a fare a meno di me, che mi scrive: ma vai avanti ancora per molto con sta stronzata, vai a spalar merda, coglione. Martina, guarda, quando vuoi ne parliamo, facciamo quattro chiacchiere, è una brutta giornata per tutti evidentemente oggi. Sono le 18:54, buongiorno a tutti. Oggi si parla del mio impianto home theater, che è una roba che ha 5-6 anni di vita. Devo tirar sul microfono, Rudy, aspetta un attimo. Ecco, così l'hanno sentito tutti che ho tirato sul microfono e siamo a posto. Dicevo, il mio impianto home theater è un impianto serio, c'ha 5-6 anni di vita, però è una roba proprio, sapete, con le 5 casse, quelle che metti due di fianco, due di dietro, c'ha il subwoofer o subwoofer come lo chiama qualcuno, al DVD, alla radio, insomma è un bel pezzo da arredamento e di elettronica. Quindi andatevelo a vedere sul sito radio24.it oppure su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Perché però vendo questo home theater? Perché vendo tutto. A questo home theater però io ho legato il ricordo del primo film che ci ho visto, che è il mio film preferito. Avete presente? Qual è il tuo film preferito? Non lo so, saranno 5 o 6. No, io uno ce l'ho e so anche citarlo. So anche citarne dei pezzi e lo farò più avanti. Però vorrei che anche voi, oggi, perché alla fine citare un pezzo di un film ti dà una sorta di, no, di piacere, proprio di goduria. Quindi fatelo, 800240024 349-238-6666. Potete o scrivermelo oppure proprio dirmi la voce, la citazione del vostro film preferito. Anzi, facciamo così. Voi mi fate la citazione prima e io indovino il film. Rudy, come la vedi? Se non indovino siamo... di merda, è proprio pronta, è lì servita. Ma facciamoci questo gioco: 800240024 oppure 349-238-6666. Su Facebook ne sono arrivate diverse. Allora, Susanna: questo è Hollywood, la terra dei sogni. Alcuni si realizzano, altri no, ma voi continuate a sognare. Cos'è? Pretty Woman: alzati, sta entrando tuo padre, il buio oltre la siepe. Ancora Giacomo: Mario, tutto accade e non ci possiamo fare niente. Puerto Escondido: Maddi mi scrive, Maddi è raffinata, io non sono mai vissuto, sono morto qualche volta. Harold e Maud. Ho fatto anche io con la faccia, quando l'ho letto, non so cosa sia. Ancora Eleonora: e guarda che è brutto avere una risposta bella pronta e nessuno mai ti fa la domanda giusta. Santa Maradona: 800240024. Prima però di cominciare con la storia del mio home theater vorrei leggervi una citazione che è un po' più lunga, direi che proprio è il monologo iniziale di un film. Facciamo così, io ve lo leggo e vediamo se voi lo conoscete. È abbastanza conosciuto, è un film di credo ormai una quindicina d'anni fa, e voglio citarlo perché mi sembra esattamente l'opposto di Vendo Tutto. Me la manda Caterina, me l'ha mandato sul profilo di Facebook e fa così: scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore, scegliete lavatrice, macchine, lettori e apriscatole elettrici, scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita, scegliete un mutuo e interessi fissi, scegliete gli amici, scegliete una moda casual e la valigia in tinta, scegliete un salotto di 3 pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa, scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare, alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita, ho scelto qualcos'altro. 349-238-6666 se sapete di cosa si tratta, oppure 800240024 per godervi la citazione del vostro film preferito in diretta su Radio 24. Andiamo a vedere invece e a rassentire la storia del mio impianto home theater. Per vederla, radio24.it. Per sentirla, eccoci qui. L'impianto home theater. Impianto Home Theater, marca LG, modello DA3620. Dotato di 6 diffusori, 2 anteriori, 2 posteriori surround, 1 centrale, 1 subwoofer. Potenza 35 watt. Lettore DVD con caricamento singolo disco, lettore CD e radio RDS integrata. Telecomando, 2 ingressi audio video, colore silver. Ottimo per chi ama il cinema, ma odia sedersi in una sala piena di gente. Valore commerciale 470 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Ci sono poche cose imbarazzanti e fuori luogo come un regalo eccessivo. Avete presente quando vi trovate nella situazione in cui una persona che conoscete appena, che magari avete anche frequentato ma non più di una decina di volte in tutto, vi fa un regalo spropositato? Ecco, quella sensazione lì a me è successa con una ragazza che si chiama Virginia. Dunque, ho conosciuto Virginia alla presentazione di un libro. Io in realtà ero in libreria perché stavo cercando un biglietto per lo stadio e fino a qualche tempo fa lì si potevano comprare biglietti un po' per tutto. Lei invece era lì perché seguiva la presentazione di un libro, appunto, un libro sull'ecosostenibilità e le energie rinnovabili. Una di quelle presentazioni, mi perdoni Mr. Kilowatt, che a sentirne un quarto d'ora ti viene voglia di sfruttare tutte le energie possibili, di inquinare quanto un tir. Però evidentemente lei ha pensato che io fossi interessato all'argomento, quindi quando mi sono accorto che questa strategia pagava, io ovviamente ho retto la parte. Dopo la noiosissima presentazione, senza nemmeno chiedercelo, ci siamo ritrovati a bere un caffè. Dunque Virginia non era brutta, non era neanche bella però, era giusta giusta per il suo nome. Avete presente quelle persone che uno sente il nome e si immagina la faccia, il fisico oppure il carattere, subito, pronti via? Ecco, Virginia era così. Alta 1,60 m, 1,65 m, capelli più o meno castani, lunghi grosso modo fino alle spalle, occhi non saprei dirlo, non grassa, ma che si vedeva che stava già un po' inquartandosi. Dopo il caffè ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento per un ipotetico futuro, magari per un cinema. Il giorno dopo ricevo un suo messaggio in cui mi propone di andare a teatro. Quel giorno non avevo un granché da fare e pensai che alla fine andare a teatro è sempre piacevole, che magari nel dopo teatro poteva venire fuori qualcosa di interessante. Le risposi che ci saremmo visti direttamente alla biglietteria. Lo spettacolo fu una sola mortale. A quel punto, per sollevare la serata, puntavo tutto su quello che sarebbe successo dopo. Andammo a mangiare qualcosa in una trattoria in zona Porta Romana. Virginia era vestita troppo elegante quella sera, sia per il teatro sia per la trattoria. Cominciò a parlare e non si fermò più. Agitava le mani in continuazione, come se fosse posseduta dal demone del gesticolare. Non faceva altro che parlare di sé, di quello che faceva, di quello che aveva fatto prima e di quello che avrebbe fatto poi. Ogni 5 minuti ripeteva questa frase. No, sai, perché io sono fatta così. Ma come sei fatta, Virginia? Lascialo dire agli altri come sei. Anzi, guarda, non lo fare né a loro né a te. Silo e basta. Lo so, detto così sembra un po' marzullo, però è vero. Io non sopporto sta roba che le persone che si autodefiniscono e che ti raccontano come sono loro senza che tu gliel'abbia chiesto. Sì, ogni tanto domandava qualcosa di me, ma era evidente che non le interessasse. Io infatti inventavo addirittura le risposte, ma non cambiava nulla. Avrei potuto dire qualsiasi cosa. Lei annuiva, faceva un sorriso e poi ripartiva a dire un'altra cosa, non richiesta ovviamente su di lei. Quella sera finì come doveva finire. Poi, un po' per noia, un po' per disperazione, ci rivedemmo, credo, altre 4 o 5 volte. Punto. Qualche settimana dopo l'ultimo giorno che ci eravamo visti, era il mio compleanno. Lei mi ha chiamato con la voce tremante e mi disse che aveva una cosa per me. Io cercai in ogni modo di evitarla, ma alla fine cedetti. Ci incontrammo in un bar e lei mi riempì di insulti e di lacrime soprattutto. Alla fine però mi disse che aveva una cosa per me, che non me la meritavo, tutte quelle cose lì, però voleva darmela lo stesso. Andammo alla sua macchina e tirò fuori un pacco enorme e pesantissimo. Lo aprì ed era questo impianto Home Theater. Facile andare quando non sai guidare, na, na, na, na. Di com'è triste il Natale senza mio padre, na, na, na, na, na, na. Non pensate che non ci abbia provato a non accettarlo, io l'ho fatto e come, però è stato impossibile. Virginia si rimise a piangere dicendomi che non solo l'avevo sfruttata, ma che ora volevo anche umiliarla non accettando il suo regalo. Più Piansi tutte le sue lacrime e alla fine accettai. Chiaramente quello di Virginia fu un trucco per aumentare i miei sensi di colpa e devo dire che ci riuscì benissimo. Per qualche giorno lettori DVD con le casse e il subwoofer rimasero impacchettati in un angolo della casa. Non avevo il coraggio di aprirlo e pensavo che non ce l'avrei mai fatta. E invece non fu così. Dopo circa un mese, in un giorno torrido di agosto, all'edicola sotto casa mia trovai il DVD del mio film preferito e pensai che era arrivato il momento di usare il regalo di Virginia. Che è un regalo, sempre un regalo, e che non ci sarebbe stato un film migliore con cui inaugurarlo. Il film è La vita è meravigliosa, di Frank Capra, con James Stewart. La vita è meravigliosa sembra un film di Natale, perché scende la neve e le case sono addobbate con luci e alberi natalizi. Ma è qualcosa di più o di meno di un film di Natale, o comunque qualcosa di diverso. Il bello del film è che tutto è troppo. È troppo enfatico il modo in cui parlano i personaggi, è troppo la bontà del protagonista, è troppa la sofferenza che prova, e poi è pure troppa la sua felicità. Perfino l'angelo custode mandato dal cielo è troppo imbranato per credergli. Eppure tutto questo eccesso ti intenerisce, ti circuisce quasi, ti fa sentire uno che la sa lunga, uno che ha capito come vanno le cose, che non ci cascherebbe mai negli errori di James Stewart. Insomma, ti cucina a fuoco lento. E poi quando sei cotto a puntino, ti infila uno stiletto in mezzo alle scapole e ti lascia lì, a piangere come uno stupido. La storia è questa qui. James Stewart è un uomo buono, uno che di mestiere fa il costruttore edile. Costruisce case a prezzi bassi per i poveri, non fa altro che rinunciare a sé per il bene degli altri, per tutta la vita. E quando finalmente è lui ad avere bisogno, il bene che ha fatto gli torna indietro, come un regalo. La vita è meravigliosa parla d'amore. Che cosa vuoi, Mer? Vuoi la luna? Se la vuoi, io la prenderò al laccio per te. Ti darò la luna, Mer. E certo. E poi? Si dissolverebbe in te. La vita meravigliosa parla di ideali. George, tanto per cominciare, ti darò $20,000 all'anno. $20,000 all'anno? Sì, e tu potresti vivere nella più bella casa della città, comprare dei bei vestiti a tua moglie, andare spesso a New York per affari e fare qualche viaggio in Europa. Ti dispiacerebbe, George? No. So già qual è la mia risposta, è no! No, maledizione! State qui a ordire le vostre dame come se il mondo fosse imperniato su voi e sul vostro danaro! Ma non è così, signor Potter! Ma soprattutto parla di pieni e di vuoti, e forse è per questo che lo trovo uno dei film più belli che ci siano. Così pensi ancora che uccidendoti faresti diventare tutti più felici, eh? Anzi, sarebbe stato meglio se non fossi nato. Cosa dici? Ho detto che vorrei non essere nato! Oh, non devi dire queste cose. La vita di un uomo è legata a tante altre vite. E quando quest'uomo non esiste, lascia un vuoto. Eppure, nonostante tutto, anche questo sistema home theater è in vendita. Il suo valore è di 470 euro. La base d'asta qui sono 99 centesimi. Se avete voglia di chiamare e citare in diretta il vostro film preferito, e io lo indovino, 800 24 00 24. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Allora facciamo che lo faccio solo per oggi, eh? Così siete contenti e poi la smettete, perché no, tutti i giorni, poi magari anche gli sms costano. Tutti gli sms cattivi li leggo oggi, poi basta, per cui, ma la vuoi finire con taballe di merda fallito? Matteo, non hai mai pensato di vendere anche il culo? Ciao Luca, veramente rotti i coglioni, 10 puntate di sta stronzata erano fin troppo, pubblicizza il tuo cazzo di libro e togli di là i coglioni. Guarda, tu pensa, non ho nemmeno pensato di scrivere un libro. 800240024 349-238-6666. Sei pronto, Jack? Io sono nato pronto. Chi è? Chi è? Fagin, dimmi chi è. Fai così e poi mi dice... Vabbè, andiamo avanti. Senti il vento. Vento un cazzo, è la gomma della mia bici. Ce l'ho, Marrakesh Express. Il più grande inganno che il diavolo ha fatto all'uomo è far credere che lui non esiste. I soliti sospetti, me l'ha scritto, me lo sapevo. 800240024, andiamo al volo. Andrea da Mantova, pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao Andrea. Guarda, ciao. Dimmi subito la frase, io la indovino. Senti, c'è sta qualcuno qua che del cognome fa come... Riso, sorriso, risata, ce l'ho, è Verdone, è bianco, rosso e Verdone. C'è poco da ridere, anche. C'è poco da ridere. Grazie, esatto. Andrea, ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo a Roma da Alessio, pronto? Ciao, caro. Ma perché ti dicono tutte queste cose cattive? Ne dici una, arrivano tutte. Alessio, allora, dimmi la tua. Te la posso dire in inglese o in italiano? No, non esageriamo, vai in italiano. Allora, io sono il sergente maggiore. Full Metal Jacket, ce l'ho! Esatto. 2 su 2. Grazie mille, Alessio. Ciao, buona giornata. Ciao, altrettanto. Ferrara, Giuseppe, pronto? Pronto, ciao. Ciao, Matteo. Giuseppe, come stai? Io sto bene. Bravo, anch'io. Andiamo alla citazione. Ascolta, la citazione è questa, se finisce e comincio io. No, scusa, ripetila perché per un attimo sei andato via. Allora, fa così. Qui, se finisce e comincio io. Purtroppo ti ho sentito poco. Aspetta, rimani lì, riproviamo con un altro. Pronto, Luigi da Pavia. Luigi. Ciao Matteo. Ciao. Resisti, Luigi. Come? Resisti. Sì, vabbè, voglia per così, per così poco. Dimmi qual è la tua. Allora, questo è il mondo. La risposta. No, questo è il mondo. No, però Luigi, non ci siamo, almeno tu la devi sapere. Vai, da capo. Questo è il mondo. Sì. E la risposta è no, questo è il mondo che abbiamo voluto noi, che ho voluto io. Ustia. Non ce l'ho questa. Dimmi, cos'è? Mission. No, buona, niente, mi spiace. Grazie Luigi, m'hai fregato. Ciao, alla prossima. Ciao. Andiamo a Milano da Alessandro, pronto? Ciao, ciao. Ciao Alessandro, senti, vai diretto con la tua. La situazione è questa. Sì. Ma in fin dei conti cosa ti manca dell'Italia? Niente. Aspetta, dimmi, è una roba cos'è? È Salvatore? No. No, qualcosa del genere. Dimmi l'anno. Dimmi quanti anni fa più o meno? 10, 5? No, non ce l'ho. 14 anni fa. Non ce l'ho, dimmi tu. Facciamo fiesta. Facciamo fiesta, grazie mille. Ciao Alessandro. Ma è arrivato un messaggio e ce l'ho il messaggio. Vai, fai partire la sigla che te la do. Al mio cenno, scatenate l'inferno. Il gladiatore, grazie a tutti, ringrazio Laura Faginti, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Fabio Rudi Candadori. L'impianto Home Theater come al solito è sul sito radio24.it oppure Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo il DVD della Vita è Meravigliosa, ne ho parlato oggi e domani lo vendo. Voi invece godetevela che alla fine, nonostante tutto, anche se non sembra, la vita è davvero meravigliosa. Love, love, love.